dalla palus cavalus, o sono leonugi, fece fuoco da scos, ma sciando praghe a senza la palus cavalus, o sono leonugi, fece fuoco da scos, ma sciando praghe a senza la palus cavalus, o sono leonugi, fece fuoco Santo Praga, Santo Gala Pagos, Pilatos, o Sole Onuci, deixe fogo nas costas, mas Santo Praga. Smiles, contemplate.